peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi protagonista è il sax, saranno tre sassofonisti di primo livello, insomma, decisamente importanti. Si tratta di Tony Malaby, di Ken Vandermark e di Steve Coleman, quindi sicuramente personaggi di primo livello. La caratteristica oggi che ascolteremo è la forma in trio. La forma in trio è da sempre la più ambiziosa per un sassofonista, perché in sostanza si pone in condizioni di una valutazione strettamente musicale su quello che può essere la sua capacità sia di solista che di costruttore di situazioni musicali. E quindi non sono molti poi quelli che hanno dato vita a questa forma, che ultimamente, devo dire, è sempre più presente, però inizia poi praticamente con Sonny Rollins nella seconda metà degli anni 50, quindi precedentemente era una forma certamente ben poco frequentata e non è mai su disco. La formazione in trio, ascoltiamo prima Tony Malaby, che peraltro predilige la formazione così di piccolo taglio. E ormai sono diversi progetti che lui conduce, sempre legati a questa proporzione minima. Per esempio, uno dei suoi progetti costanti è il Tuba Trio, dove vede al posto del basso la presenza del basso tuba. E in questo caso invece il progetto è Tamarindo, è una formazione in trio che abbiamo peraltro visto anche qualche anno fa a Bologna, e sempre con gli stessi musicisti, cioè con William Parker e Nashit Waits alla batteria, William Parker naturalmente al contrabbasso e Nashit Waits alla batteria. Questo è quindi un trio classico. Nashit Waits è bravissimo ed è anche molto, diciamo, molto condizionabile anche dal contesto nel quale si trova a operare. Normalmente lavora su formazioni di mainstream. Questa formazione, questo progetto, diciamo, di Tony Malaby persegue un linguaggio più legato a una sintesi tra, si può dire sempre tra virgolette, ma insomma comunque una sintesi tra il linguaggio di Sonny Rollins e quello di Coltrane, che peraltro è un ispiratore anche nelle sonorità. Malaby lavora molto nell'analisi della costruzione melodica, ha un fraseggio molto stretto, molto da riascoltare con molta attenzione, perché è estremamente punteggiato, quindi sicuramente è una forma anche complessa che comporta anche un'attenzione particolare da parte di chi l'ascolta. Ascoltiamo da questo lavoro uscito quest'anno, insomma recentemente, per l'etichetta, sempre per l'etichetta Clean Feed, e questo secondo lavoro con questa formazione Tamarindo, e il titolo dell'album è Somos Aqua. Ascoltiamo un paio di brani che danno un po' anche la visione di quello che è il contesto di questo intero album. Thank you. Thank you. Questo era il trio di Tony Malaby nella formazione del Tamarindo, con l'ultimo lavoro Somos Aqua, un disco, un CD uscito per l'etichetta Clean Feed. E appunto la formazione Tony Malaby, William Parker e Nashit Waits, quindi una formazione classica di sax, basso e batteria. Ma la piccola formazione in trio sta subendo anche delle modifiche. Sono ormai diverse le occasioni nelle quali, al posto del basso, pur rimanendo ferma la presenza della batteria, perlomeno nei contesti più jazzistici, meno cameristici, ecco, al posto del contrabbasso vengono usati altri strumenti. Ad esempio, sempre più frequente, la presenza del pianoforte. E uno dei gruppi, a mio avviso, tra i più interessanti dei tanti, dell'infinità di progetti diversi che porta avanti Ken Vandermark, è una formazione in trio con appunto il pianoforte. Vandermark alle anze, sempre più frequente il suo lavoro, specialmente in questa formazione, al clarinetto, più che al clarinetto basso. E poi alla batteria Chad Taylor, un gigante delle percussioni di questo strumento, che peraltro già da parecchi anni collabora nell'ambiente chicagoano, diciamo, ai progetti più interessanti, penso per esempio con Mazurek, anche in duo con Mazurek, oppure nella formazione orchestrale. E poi al pianoforte, un pianista interessante, non americano, quindi in questo caso, è svedese ed è Harvard Snarpness, vabbè, Wick, comunque, perlomeno il cognome è Wick, ed è il pianista che lavora anche con il gruppo degli Angeles di Kuchen, ma è uno degli elementi, diciamo, musicali più attivi nell'ambiente dell'avanguardia svedese, ed è senz'altro un pianista di grande livello, che dà un carattere molto, molto forte a questa formazione in trio. È uscito un disco recentemente, il secondo anche in questo caso, come prima per Tony Malaby con Tamarindo. Il gruppo è chiamato Said A ed è uscito un disco recentemente per l'etichetta Not Two, un'etichetta polacca che recentemente, diciamo, che si può definire una delle più attive nell'ambito della lettura dell'avanguardia non solo europea ma anche appunto americana, soprattutto per le presenze dei musicisti che vengono in Europa. Un disco ben riuscito, anche in questo caso una conferma delle grandi qualità di questi musicisti e del progetto che ci sta dietro. Ascolteremo tre brani, l'ultimo dei quali peraltro è dedicato a un altro trio importante degli anni 70, che era guidato da Henry Tredgill e che è un po' il capostipite di tutta questa forma d'avanguardia che si sta portando fino ai giorni nostri. Prendo un testimone anche da precedente, ma sicuramente è stato un punto di svolta. Era il trio Air, e quindi con Henry Tredgill, Fred Hopkins e Steve McCall. Ascoltiamo queste tre composizioni di Vandermark nell'esecuzione della formazione Seida. Thank you. questo era il trio Said A di Ken Vandermark con Chad Taylor, veramente straordinario alla batteria, ma non solo Chad Taylor straordinario, ma anche Vic al pianoforte, Howard Vic che si conferma una delle promesse più interessanti delle ultime generazioni, un pianista che per la sua formazione classica e anche per la conoscenza di quello che può essere anche tutta la storia dell'avanguardia del jazz, riesce a dare un valore aggiunto ulteriore a questa formazione in trio. Il disco è intitolato In the Abstract ed è uscito nelle ultime settimane per l'etichetta Not Two. È stato registrato al Festival di Lubiana, peraltro, nel 2013. E sempre di provenienza da un festival, in questo caso un festival italiano, al Festival di Cormons, un festival che peraltro frequentiamo anche come Radio Città Fujiko, e eravamo presenti anche a questa performance di Steve Coleman in trio. E si è presentato infatti nel 2011 al Festival del 2011 con questa formazione in trio. Steve Coleman, io almeno lo ritengo uno dei grandi maestri, non è soltanto uno straordinario sassofonista, ma è anche un creatore dell'ultimo stile definibile land-based music e anche di quello che è appunto stato il percorso che è arrivato fino a coniugare un linguaggio bop, un linguaggio che proviene da quel tipo di formazione jazzistica, a un linguaggio più popolare. Lui si rifà alla musica rap, perlomeno questo nella citazione, però in sostanza il risultato è un ritmo molto teso, molto spesso vicino alla costruzione rock, e dove il fraseggio però, dal punto di vista musicale, è sempre più legato, sempre più frequentemente individuabile in una sorta di reminiscenza barocca. Ecco, in questo caso, in questa situazione in trio, diventa a mio avviso piuttosto evidente anche una derivazione da Lycaonis. A me ha ricordato immediatamente il cool di Tristano con Lycaonis, e quindi a quello che poi è sempre stato considerato il passaggio di consegne che parte da Tristano, passando attraverso anche le esperienze che passano da Ornette Coleman, ma poi soprattutto a Braxton, a Tridgill e quindi infine a Steve Coleman e attualmente a Steve Lehman. La formazione in trio anche in questo caso è col pianoforte, quindi batteria e pianoforte, oltre al sax contralto di Coleman. La batteria è quella di Kessa Overall, un batterista bravo ma sicuramente non di primissimo piano, uno che viene dall'esperienza appunto dell'ambient music e della formazione dei Five Elements di Steve Coleman, e si aggiunge al pianoforte, alle tastiere, David Vireles, che è uno dei talenti emergenti più importanti, diciamo, del pianoforte cubano, ha poco più di 30 anni e sicuramente uno dei musicisti che attualmente sta proponendo più progetti, si sta proponendo anche in più formazioni diverse, sempre con livelli qualitativi elevati. Ne dà prova anche in questa occasione. E Steve Coleman ha tante doti, sicuramente non ha quella della sintesi, e questo è il suo problema, non conclude quello che è il suo percorso, è come una sorta di elaborazione costante delle forme melodiche e armoniche. Ricordo in questo anche John Coltrane, che si interessava poco dell'attenzione del pubblico e molto di più di quello che poteva essere il risultato della musica che scavava. Steve Coleman, in questa situazione lo si può ascoltare con con attenzione, perché poi l'ascolto è anche in questo caso comporta un'attenzione particolare e appunto ne dà prova di altissimi livelli. Ascoltiamo un frammento, è stato registrato, questo è un disco, probabilmente un disco pirata, anche perché nella citazione di copertina parla di un festival in Francia, Cormons, appunto, probabilmente qualcuno che ha avuto qualche problema di tipo geografico. E l'etichetta non è individuabile, comunque la provenienza sì, perché è una registrazione fatta dalla RAI, era presente infatti la RAI che ha trasmesso questo concerto. Ascoltiamo una parte di uno dei momenti lirici più belli, a mio avviso, di questo concerto. Questo era il trio di Steve Coleman, registrato al Festival di Cormos nel 2011, un bootleg uscito recentemente che testimonia questo bel concerto. Steve Coleman al sax contralto, David Vireles al pianoforte e Kessa Ovaral alla batteria. Questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che le informazioni relative a quello che abbiamo ascoltato e anche l'intera trasmissione la potete riascoltare in Radio Città Fujiko .it nella sezione playlist. Salve a tutti e alla prossima. Thank you.